buon pomeriggio a tutte e a tutti. Siete sempre sintonizzati sugli 87.9, questa è Radio Onda Rossa. E come ogni giovedì che si rispetti, puntuale alle 16 inizia un nuovo viaggio musicale di Attica Blues. Oggi parleremo di jazz, ma più precisamente di Latin jazz. Perché? Perché lo scorso 7 novembre ci ha lasciato un personaggio davvero leggendario, il percussionista cubano Cándido Camero. Lui che è diventato dalla fine degli anni 40 uno dei percussionisti cubani e caraibici più onnipresenti nei dischi, soprattutto jazz, e che hanno animato e arricchito il panorama musicale del Nord America durante la seconda metà del XX secolo. Cándido de Guerra Camero. È Honeysuckle Rose dall'album Latin Fire del 1959, in cui Cándido Camero era leader già di una sua orchestra. Ma la carriera di questo splendido musicista inizia molti anni prima. Lui, Cándido de Guerra Camero, nasce infatti a La Habana il 22 aprile del 1921. Da ragazzo suona il contrabbasso e poi, dopo aver studiato anche la chitarra, all'età di 14 anni inizia a concentrarsi sulle percussioni, diplomandosi presto in congas. Fin da giovanissimo poi ha iniziato a registrare con i vari band leaders cubani, tra cui spicca anche Macito. E in questi primi anni della sua carriera lavorerà come membro di una house band alla stazione radio CMQ de La Habana e si esibirà anche al Tropicana Club come membro dell'orchestra di Armando Romeo dal 1947 al 1952, sostenendo le più grandi star cubane degli anni e annoverando tra i suoi compagni di band anche il giovane percussionista Mongo Santa Maria. svolta della sua carriera avviene nell'ottobre del 1952, quando ottenne un ingaggio di 6 settimane al Clover Club di Miami, seguito poi da un trasferimento a New York suggerito da un suo nuovo amico, il trombettista jazz Dizzy Gillespie. Candido Camero era un contemporaneo, infatti, del leggendario Chano Pozzo, un altro percussionista che ha introdotto la batteria e i ritmi afro-cubani al jazz proprio tramite Dizzy Gillespie alla fine degli anni 40 a New York. E così, dopo la morte di Pozzo avvenuta nel 1948, ci fu un'enorme richiesta di ritmi cubani nel jazz e nella musica popolare in generale. E così Camero, quando arrivò a New York, era già un noto musicista della Havana. Dizzy lo portò personalmente al Downbeat Club con il pianista Billy Taylor, con cui inciderà nel 1953, ma soprattutto la svolta avvenne nel 1954, quando iniziò a registrare anche con il trio di Errol Garner. Questa Mambo Nights è tratta da Mambo Moves Garden, il primo disco appunto del 1954, quando il pianista Errol Garner aggiunge per la prima volta un suonatore di congas al suo trio. Così, dalla metà degli anni 50 per tutti gli anni 60 e fino alla fine degli anni 70, Candido Camero divenne il percussionista latino-americano più attivo nella musica jazz e pop, suonando e registrando con i più grandi nomi del jazz statunitense. Qui ce l'ascoltiamo live alla Carnegie Hall in compagnia di Charlie Parker, Dizzy Gillespie e poi anche Walter Yost e Walter Bishop e Roy Haynes. Questo è il tema sulla 52esima strada, scritto da Thelonious Monk. L'aprile del 1956 segna anche il debutto discografico del percussionista come leader, in una band che include il sassofonista tenore Al Conn, il pianista Dick Katz, il contrabbassista Whitney Mitchell, il chitarrista Joe Puma e il batterista Ted Sommer. Noi abbiamo scelto la traccia di apertura, Mambo In. (Susurra) Sideman che Candido Camero risulterà veramente decisivo in alcune registrazioni che hanno fatto la storia. Come in questo caso, questa è la Drum Suite di Art Blakey registrata nel 1956 ed è un meraviglioso ibrido di ritmi africani, latini e hard bop che prefigura anche il concetto di Afrobeat di almeno un decennio. Art Blakey e Phil Joe Jones sono alla batteria, Oscar Pitford al contrabbasso, Ray Bryant al piano, Candido Camero e Sapu Martinez alle congas e Charles White alla batteria, ai timpani e al gong. Questa è Cubano Chant. We'll be right back. oltre alla combinazione panafricana di influenze folk, portoghesi e spagnole, Candido Camero ha nominato i batteristi jazz statunitensi Max Roach e Kenny Clarke come ispirazione primaria della sua formazione musicale. Quella che ci stiamo ascoltando è una bonus track tratta dall'album Introducing Kenny Barrell, il secondo album inciso per la Blue Note dal chitarrista, ma poi il primo ad essere pubblicato. Questa Ritmorama vede Candido Camero duettare con uno dei suoi idoli di sempre, il batterista Kenny Clarke. Spesso accade, necessità fa virtù, e infatti, come rivelato in un'intervista del 1996, Candido Camero era stato reclutato per esibirsi a New York con una popolare rivista di musica e danza cubana, che però non aveva il budget per portare con sé tutti i musicisti della formazione. Così ha imparato a suonare tutte le parti di percussioni da solo su due o tre set di percussioni, introducendo tecniche di percussione che poi gli hanno permesso di suonare nel corso della sua carriera più di una congas alla volta. Davvero un'innovazione epocale per tutti i percussionisti. Proseguiamo ascoltandoci ancora Candido Camero, protagonista di un album di un leggendario batterista. Parliamo di Elvin Jones, qui alla guida del suo sestetto, con George Coleman al sax tenore, Joe Forrell ancora al sax tenore, flauto e corno inglese, Pepper Adams al baritono, il bassista William Little e ancora Candido Camero alle congas. Quella che abbiamo scelto è Agenda. Thank you. adesso invece ci ascoltiamo due brani in sequenza che vedono Candido Camero leader di proprie formazioni. Il primo è un celeberrimo standard scritto da Duke Ellington, mentre il secondo, Years Gone Candy, è scritto proprio da Candido Camero in compagnia di un'altra leggenda delle percussioni, Tito Puente. Yeah. poteva di certo mancare un brano con colui che l'ha lanciato e tra l'altro grandissimo appassionato di musica caraibica. Parliamo di Dizzy Gillespie e abbiamo scelto un brano da Talking Verve, un album del 1966 che vede anche Kenny Barron al piano, Billy Butler alla chitarra, Panama Francis e alle percussioni, Candido alle congas, James Moody al flauto e al sax tenore e Frank Schifano al contrabbasso, ovviamente Dizzy Gillespie alla batteria. Questa è Bang Bang. Concludiamo questa puntata dedicata a questo splendido percussionista con due dischi in cui Candido Camero è grande protagonista. Lui, scomparso appunto lo scorso 7 novembre all'età di 99 anni e che è stato l'ultimo legame vivente con un momento alchemico negli anni 40 che ha dato vita a un intero genere di musica, il Latin Jazz. E allora per salutarvi abbiamo scelto da prima It's Alright, il brano scritto da Curtis Mayfield e qui ripreso dal Wynton Kelly, il trio composto appunto dal pianista di origine giamaicana ma poi trapiantato in America, il bassista è Paul Chambers, il batterista è Jimmy Cobb ed è arricchito dal chitarrista Kenny Barrell e dal percussionista Candido Camero, disco registrato il 19 marzo del 1964. noi invece ci salutiamo con questa Brown Skin Girl di Sonny Rollins dall'album What's New del 1962. Un anno davvero importante per lo splendido sassofonista che veniva da 2 anni di silenzio, si era infatti autoimposto questo periodo sabbatico per studiare e poi uscì come una furia, registrando in modo prolifico ed esplorando anche varie direzioni. In questo disco Rollins mescolava standard e brani originali e forniva anche la sua interpretazione di quella che allora era una tendenza esplosiva, la bossa nova. Camero, uno di quei personaggi magari poi rimasti più nascosti all'interno dei vari CD, ma come abbiamo ascoltato, ha davvero dato un nuovo sound al jazz dagli anni 50 in poi. Lui che per diversi decenni ha combinato la sua abilità artistica altamente sviluppata anche con la disco, il funk e praticamente qualsiasi altra cosa che fosse nell'aria. Più di 16 album all'attivo a suo nome, Candido Camero poi è stato anche premiato con un Grammy Award nel 2009. Con Sonny Rollins noi vi diamo appuntamento a giovedì prossimo, ricordandovi sempre tutti i nostri podcast sulla pagina della radio www.onnarossa.info e ricordandovi anche le nostre pagine social. Atticabus la trovate su Facebook, su Twitter, su Instagram e anche su Spotify, dove troverete una ricchissima playlist di musica nera. E per la diretta invece l'appuntamento è sempre il giovedì, sempre alle 16, sempre su Radio Onda Rossa e sempre Attica Blues.